in quel sentiero così diverso, privo di gente che è abituata spesso a piangersi addosso. Quindi prova un po' anche tu, oppure piangi e resta seduto per terra. Ma ti pare, con tutta questa gente che mi vuol cavalcare, sai cosa fare? Yeah.